Capeluccia, aiuta Roma, fai scambiare in un milione, dammi l'amore, zigiti giù, e dammi lo cuore, zigiti già. E finché si dà venuto un milione, si l'ha punuto, e dammi l'amore, zigiti giù, e dammi lo cuore, zigiti già. Rave luce per tutti fino a me mi faranno figurine, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. Questi signorini che ti portano alla rovina, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. E nascosta la tua mamma che ti porta da nudo un canne, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. Quando tu ti vesti fino può passare qui signorine, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. Se ti vesti con linguanti tu può fare l'elegante, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. Se ti vesti un poco brutto tu mi pare un farabutto, dammi un cuore zigri zi e dammi un cuore zigri zà. Se ti pare di li festi tu non parlo disoneste, dammi lo cuore zigri zi e dammi lo cuore zigri zà. I valori di genitori vanno più di un tesoro, dammi lo cuore zigri zi e dammi lo cuore zigri zà. La veloce vestuti fino a me mi parano figurine, dammi lo cuore zigri zi e dammi lo cuore zigri zà. La veloce vestuto d'oro, venga non ciumpe, bene mi ciove, dammi un cuore, zigri zi, e dammi un cuore, zigri zi.